La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Fiabe, favole, racconti, leggende. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net. La bambina scomparsa e la marmellata di more al gusto di strega. Una fiaba scritta e messa in voce da Gaetano Marino. Nel povero villaggio di Geridu, sorto nell'isola di Hycnos, c'era una giovane madre di nome Marianina. Ella aveva una figlia molto bella che si chiamava Martinella, di cui si vantava sempre. E quanto se ne vantava! Molte comari la rimproveravano per la sua superbia, ma la giovane madre rispondeva: «E perché non pensate ai vostri marmocchietti, che mi paiono piuttosto bruttini? Ditemi, care comari, avete mai visto una bambina più bella della mia? Non mi pare proprio. La verità è che voi siete piene di invidia». Le comari scuotevano la testa con lo sguardo torvo e ammonivano la giovane madre: «Stai attenta, Marianina, e ricorda che chi si loda si imbroda». Ma Marianina tirava sulle spalle e continuava ad elogiare la sua bella Martinella. Un giorno di prima estate, Marianina prese il cesto per la raccolta delle bacche e con la bambina in braccio si avviò verso i campi. Era quello il tempo in cui si raccoglievano le more e Marianina conosceva un sentiero dove le bacche di quel frutto crescevano in abbondanza. Quando vi giunse, la giovane madre stese una tovaglia sopra l'erba di un prato fiorito accanto al sentiero, vi pose la bambina e si avviò a raccogliere le bacche. Mora dopo mora, Marianina cominciò a riempire il cesto. D'un tratto si sentirono degli strilli. «Oh, madre mia, la bambina!» gridò forte la giovane madre e rapida corse verso Martinella. Corse con il cuore che le sobbalzava sino in gola, ma fortunatamente la bambina stava ancora là, sdraiata sulla tovaglia. Quando fu vicino, vide la figlia, che era rossa e paonazza. Marianina la prese in braccio, ma la bambina iniziò a piangere e strillare forte. La riempì di baci, di carezze e di tenere parole. Niente da fare. I pianti e le urla non finivano. Qualcosa non andava. Marianina prese il cesto di more e con in braccio la sua Martinella si precipitò a casa. Quando vi giunse, appena mise la figlia nella culla, anziché calmarsi, la creatura aprì la bocca e strillò così tanto che le si vide l'ugola vibrare forte. Forse aveva fame. Marianina preparò subito una bella zuppa di latte e biscotti e Martinella la mangiò tutta. La mangiò, la divorò, che pareva che la figliola non mangiasse da giorni. Appena finì di mangiare, la bambina fece il suo ruttino, ma subito ricominciò a urlare con la bocca spalancata, chiedendo altro cibo. La povera madre cucinò ancora una pentola di zuppa con altro pane e latte e la figlia mangiava e quando finiva ricominciava a urlare perché aveva ancora fame. Per giorni e giorni Marianina preparò ogni sorta di cibo che Martinella divorava con la bocca spalancata come una caverna. mangia oggi, e tutto il giorno, e mangia ancora, senza fine, finché, inevitabilmente, la bambina cominciò ad ingrassare. E più diventava grassa, più urlava, chiedendo d'essere sfamata. Il guaio fu che ingrassava ogni giorno di più, tanto che diventò quasi una palla. Nella faccia non si distingueva più il naso dalla bocca. Gli occhi erano quasi del tutto nascosti. Gambe e braccia si confondevano con tutto il corpo. Poi venne una notte in cui improvvisamente Martinella smise di strillare. Marianina le preparava comunque da mangiare, ma la bambina non aveva più fame e teneva la bocca chiusa. Com'era possibile? Così da un momento all'altro sua figlia era cambiata di nuovo. In pochi giorni la bambina dimagrì tanto. Il suo corpicino si ridusse come uno stecco. La pelle si ripiegò incartapecorita. Le gambette divennero bitorzolute, gli occhi tornarono a vedersi fuori dalle orbite e circondati da due cerchi neri d'intorno alle palpebre. Ma quel che più fece impressione furono due protuberanze biforcute che spuntarono sulla fronte come fossero piccole corna, finché la creatura smise di crescere. Marianina si disperò assai e non sapeva più che fare. Le comari andarono a farle visita, ma vedendo lo stato in cui si trovava Martinella, o quel che di lei fosse rimasto, inorridirono e nemmeno si avvicinavano alla culla per quanto quella creatura facesse spavento. Bisognava subito rivolgersi a zia Elisetta, la vecchina saggia che viveva in una capanna ai bordi del villaggio. Marianina andò a chiamarla. Quando zia Elisetta arrivò, vide tutte le comari che stavano appartate in un angolo che parevano pipistrelli. Poi si avvicinò alla culla dove stava Martinella. La vide rannicchiata mentre respirava con affanno e ascoltò quel che era successo. Marianina si accostò per prendere in braccio la sua bambina e mostrarla a zia Elisetta. Lei subito l'ammonì. «No, non la toccare. Vai in cucina e prendimi uno stecco di carbone. Spento!» Marianina eseguì l'ordine. Quando zia Elisetta ebbe in mano lo stecco di carbone, voltò e rivoltò con esso la creaturina. Osservò a lungo quel corpicino sotto i piedi, nella testa, e capì subito. Zia Elisetta fece un sospiro e parlò. «Marianina, io non vorrei dirtelo, ma questa non è di sicuro tua figlia. Qualcuno l'ha messa su quel prato, facendoti credere che fosse Martinella». Figurarsi lo sconcerto di Marianina e di tutte le comari. La giovane madre pianse con urla e gemiti, mentre le comari scuotevano quasi compiaciute il capo, perché quella era sicuramente la giusta punizione che doveva spettare a chi aveva mostrato tanta superbia. «Ma com'è possibile? Chi può avermi fatto questo?» domandò Marianina, sgranando gli occhi. «Conosco bene chi può averlo fatto», disse zia Elisetta. «Chi?» «Metissa, la mia sorellastra». «La strega fattucchiera? E quella vecchia lurida che vive nella grotta?» gridarono le comari, alzando le mani al cielo e facendo gli scongiuri. «Chi è? Chi è? Chi è?» «Ma perché la strega ha scambiato la mia Martinella con questa creatura? Che bisogno aveva di farlo?» domandò Marianina. «La mia sorellastra deve averti sentito lodare la tua figliuola per troppo tempo e ha ascoltato le ingiurie delle tue comari che si auguravano potesse cadere una grande sventura su di te e la tua bambina. Che forse non dico il vero?» disse zia Elisetta con uno sguardo di rimprovero rivolto alle comari. «Noi l'abbiamo solo messa in guardia per la sua superbia!» gridarono le comari. «Non si deve comunque augurare il male a nessuno, signore comari!» proseguì zia Elisetta. «Non è cosa buona e giusta! Andate via! Qui non c'è più bisogno di voi!» E le comari uscirono dalla casa a capo chino, con gli occhi che grondarono di vergogna. «Ora, Marianina, torniamo alla strega Metissa», continuò zia Elisetta. «La mia sorellastra, come tutte le megere cattive, è assai ambiziosa. Dalla sua grotta è scesa negli inferi per offrire a Mastro Nardone, il capo supremo dei demoni che vivono nelle tane del limbo, uno scambio. Metissa ha offerto tua figlia Martinella in cambio di una delle loro creature degli inferi. E ovviamente, per Mastro Nardone, avere una bimba innocente appartenente al mondo dei vivi sarebbe stato un grosso prestigio, ma soprattutto con lei avrebbe fatto carriera, acquisendo il diritto di scendere ancora più giù, negli inferi. E della mia bambina che ne sarà?» domandò Marianina piena d'angoscia. «La tua bambina verrà accolta negli inferi e sarà condannata a diventare una loro serva. Allora l'ho perduta per sempre?» «No, non tutto è perduto. Martinella è ancora viva e gioca nel giardino degli asfodeli, dove aspetta.» «Aspetta chi? Che cosa?» «Martinella deve liberarsi dal bene. Ella è un'anima pura e dovrà perdere la propria innocenza prima di accedere agli inferi.» «Povera mia creatura, è tutta colpa della mia superbia.» «Non disperare, Marianina. Se farai come ti dirò, salveremo la tua bambina.» «Ditemi allora che devo fare, zia Elisetta. Vi scongiuro e vi prometto che non peccherò più di superbia.» «Bene, ascolta ora. Recati subito in quel sentiero dove hai raccolto le more e porta con te il cesto insieme a quest'ampolla di cristallo. Lo so, c'è sempre un'ampolla di cristallo in tutte le fiabe, ma non possiamo farne a meno, come vedi. Metti nel cesto anche un paio di forbici e la tovaglia sulla quale hai appoggiato tua figlia quando l'hai lasciata in quel prato. Cerca la pianta di more e strappale una radice. Poi raccogli un grosso fascio di fili d'erba del prato. Con le forbici tagliati una lunga ciocca di capelli e con metà di essa lega il fascio d'erba stretto stretto. Avvolgilo con la tovaglia e legala ancora più stretta con l'altra metà della ciocca di capelli. Poi cerca un nido di vespe e strappalo. Ti pungeranno e sentirai dolore, ma so che saprai sopportarlo. Poi metti il nido nell'ampolla di cristallo e prima di richiuderla riempila di terra nera. Metti tutto nel cesto e torna subito qui. Al resto ci penserò io. Corri!» Marianina prese il cesto con tutto il resto e corse rapida al sentiero delle more. Dopo aver fatto quel che zia Elisetta le aveva ordinato, tornò a casa. Il fuoco era già acceso. Zia Elisetta si fece dare da Marianina un calderone e lo mise sopra la brace. Poi levò dal cesto l'ampolla di cristallo, l'aprì e versò il suo contenuto dentro il calderone. «Marianina, prendi le more che hai raccolto e riversale tutte nel calderone insieme a del miele amaro, un po' di lievito e qualche guscio di lumaca.» Così fece Marianina. «Ora avvicina la culla con la creatura, ma bada bene. Dovrai fare tutto quello che io ti dirò, senza fare domande.» Marianina avvicinò la culla e attese. Quando nel calderone tutto cominciò a bollire, zia Elisetta prese con le mani nude due tizzoni ardenti dal fuoco e li porse a Marianina, che la guardò con occhi terrorizzati. «Tieni, prendili, non temere, questi tizzoni non ti bruceranno le mani, è con essi che dovrai prendere la creatura!» Marianina prese in mano i due tizzoni ardenti e afferrò la creatura. Zia Elisetta levò dal cesto il fascio d'erba avvolto nella tovaglia, lo levò verso il calderone e pronunciò un incantesimo benefico. «Ah! Guizza la fiamma! E tutto ribolle! Ah! Il fuoco che brilla! Ah! E tutto sfavilla! Ah! E sibila! E dissolve! Ah!» Rapida, zia Elisetta gettò nel calderone il fagottino d'erba. Poi ordinò a Marianina: «Presto! Ora è il momento di immergere la creatura nel calderone perché possa cuocere!» Marianina, a quelle parole, ebbe un momento di esitazione. «Marianina! Se vuoi rivedere la tua Martinella, salva! Devi fidarti e fare quel che ti ho detto, non c'è tempo da perdere! Metti nel calderone quella creatura!» gridò zia Elisetta. Marianina chiuse gli occhi e con le braccia tremanti avvicinò la creatura al calderone, ma proprio in quell'istante da sotto la brace s'aprì un varco tra i tizzoni ardenti e venne fuori la strega Metissa con in braccio la piccola Martinella. «Ferma, Marianina! Quella è una creatura degli inferi che appartiene a Mastro Nardone! Non gettarlo lì dentro! No, ecco, ecco! Tieni, Marianina! Questa è tua figlia, Martinella! Ancora pura e innocente! Ora la metto nella culla! Ma lascia stare quella creatura!» Zia Elisetta non ascoltò la supplica della sua sorellastra. Strappò dalle mani di Marianina la creatura e la gettò nel calderone. Subito un grido lancinante sconquassò l'aria. Era quello della strega Metissa, che si precipitò dentro il calderone per salvare il figlio di Mastro Nardone. Ma non sapeva che dentro il calderone cuocesse la marmellata di more, e zia Elisetta sapeva bene d'essere quella veleno mortale per le streghe. E tutto ribollì nel calderone finché non rimase più nulla, tranne una densa e profumatissima marmellata di more. E bisogna dire che il suo sapore al gusto di strega ebbe un grande successo presso gli abitanti del villaggio di Geridu, tanto che molti vennero da tutta l'isola di Hycnos per assaggiarne anche solo un po'. Quando quella marmellata di more al gusto di strega fu esaurita, molti ne chiesero ancora, ma fu impossibile rifarla, perché nel villaggio di Geridu streghe non se ne trovarono più. Avete ascoltato Parole di Storie, fiabe, favole, racconti, leggende, adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net